Sezione quinta della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quinto. S'io ti fiammeggio nel caldo d'amore, di là dal modo che in terra si vede, sì che degli occhi tuoi vinco il valore, non ti maravigliar, che ciò procede da perfetto veder che, come apprende, così nel bene appresso muove il piede. Io veggio bensì come già risplende nello intelletto tuo l'eterna luce, che vista sola sempre amore accende. E s'altra cosa vostro amor seduce, non è se non di quella alcun vestigio, mal conosciuto, che qui vi traluce. Tu vuoi saper se con altro servigio per manco voto si può render tanto che l'anima si curi di litigio? Sì cominciò Beatrice questo canto, e sì, com' uom che suo parlar non spezza, continuò così il processo santo. Lo maggior don che Dio per sua larghezza fesse creando, e alla sua bontade più conformato, e quel che più apprezza, fu della volontà la libertate, di che le creature intelligenti e tutte e sole furo e son dotate. Or ti parrà, se tu quinci argomenti, l'alto valor del voto se si fatto, che Dio consenta quando tu consenti, che nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, vittima fasse di questo tesoro, tal qual io dico, e fasse col suo atto. Dunque, che render puossi per ristoro? Se credi ben usar quel che hai offerto, di mal tolletto vuoi far buon lavoro. Tu sei omai del maggior punto certo, ma perché Santa Chiesa in ciò dispensa, che par contrario al ver ch'io t'ho scoverto? Convienti ancor sedere un poco a mensa, perocché il cibo rigido che hai preso richiede ancora aiuto a tua dispensa. Apri la mente a quel ch'io ti paleso, e ferma il vientro, che non fa scienza senza lo ritenere avere inteso. Due cose si convengono all'essenza di questo sacrificio. L'una è quella di che si fa, l'altra è la convenenza. Quest'ultima giammai non si cancella se non osservata, ed intorno di lei si preciso di sopra si favella. Però necessitato fu agli ebrei pur l'offerire, ancor che alcuna offerta si permutasse come saper dei. L'altra, che per materia t'è aperta, puote ben esser tal che non si falla se con altra materia si converta. Ma non trasmuti carco alla sua spalla per suo arbitrio alcun, senza la volta e della chiave bianca e della gialla. Ed ogni permutanza credi stolta, se la cosa dimessa in la sorpresa, come il 4 e il 6 non è raccolta. Però qualunque cosa tanto pesa per suo valor che tragga ogni bilancia, soddisfar non si può con altra spesa. Non prendano immortali il voto a ciancia, siate fedeli e da ciò far non bieci, come fu Iepte alla sua prima mancia, cui più si convenia dicer mal feci che servando far peggio. E così stolto ritrovar poi lo gran duca de Greci, onde pianse Ifigenia al suo bel volto e fe pianger di sé e i folli e i savi ch'udir parlar di così fatto colto. Siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni vento, e non crediate che ogni acqua vi lavi. Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento, e il Pastor della Chiesa che vi guida, questo vi basti a vostro salvamento. Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte, sì che il giudeo tra voi di voi non rida. Non fate come agnel che lascia il latte della sua madre e semplice lascivo se come desmo a suo piacer combatte. Così Beatrice a me com'io scrivo. Poi si rivolse tutta disiante a quella parte ove il mondo è più vivo. Lo suo tacere e il tramutar sembiante poser silenzio al mio cupido ingegno, che già nuovi questioni avea davanti. E sì, come saetta che nel segno percuote, pria che sia la corda queta, così corremmo nel secondo regno. Quivi la donna mia vid'io sì lieta come nel lume di quel ciel si mise, che più lucente se ne fe il pianeta. E se la stella si cambiò e rise, qual mi fec'io, che pur di mia natura trasmutabile son per tutte guise? Come in peschiera, che tranquilla e pura, traggono i pesci a ciò che vien di fuori, per modo che lo stimi in lor pastura, sì, vid'io, ben più di mille splendori trarsi ver noi, ed in ciascun sudia. Ecco chi crescerà li nostri amori. E sì, come ciascuno a noi venia, vedeasi l'ombra piena di letizia nel folgor chiaro che di lei uscia. Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia non procedesse, come tu avresti di più savere angosciosa carizia, e per te vederai come da questi m'era in disio d'udir lor condizioni, sì come gli occhi mi fur manifesti. O bene nato, a cui vederli troni del trionfo eternal concede grazia prima che la minizia s'abbandoni, del lume che per tutto il ciel si spazia, noi siamo accesi, e però, se disii di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. Così da un di quelli spirti pii detto mi fu, e da Beatrice, di sicuramente, e credi come a dii. Io veggio ben, siccome tu t'annidi nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi, perché corrusca sì come tu ridi, ma non so chi tu sei, né perché aggi, anima degna, il grado della spera che si vela ai mortai come agli altrui raggi. Questo diss'io diritto alla lumiera, che prima m'avea parlato, ond'ella fessi lucente più assai di quel che l'era, sì come il sol che si cela egli stessi per troppa luce, quando il caldo a rose le temperanze dei vapori spessi. Per più letizia sì mi si nascose dentro al suo raggio la figura santa, e così, chiusa mi rispose nel modo che il seguente canto canta. Fine del canto quinto.